Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi vi voglio portare a casa di un personaggio straordinario che visse a Torino, in pieno centro, in via Po, in una casa che divenne un vero e proprio museo. Questo personaggio si chiamava Pietro Accorsi ed è stato il più grande antiquario italiano del Novecento. La sua casa è diventata una fondazione, la fondazione Ometto Accorsi, e oggi noi, entrando in questi appartamenti straordinariamente arredati di mobili del Settecento, che erano i mobili preferiti di questo personaggio, possiamo rievocarne la storia. La storia è incredibile perché Pietro Accorsi nacque poverissimo. Era figlio di un portinaio, tra l'altro del portinaio di quello stesso stabile che poi lui riuscirà, pensate, a comprare per intero. Questo ragazzo era nato in una famiglia molto povera, ma su di lui c'è stata una leggenda che lui peraltro non ha mai smentito, che fosse il figlio illegittimo niente meno che di Filiberto di Savoia, il cugino del re. Quindi un personaggio che aveva avuto, tra l'altro, tutta una serie di aiuti occulti durante l'inizio della sua carriera, che lui non giustificherà mai, ma non smentirà mai di essere stato, appunto, probabilmente il rampollo addirittura della famiglia reale. Ad ogni buon conto era un ragazzo in gambissima, cominciò da zero. Pensate che il primo atto di compravendita lo fece vedendo un quadro in una vetrina. Capì che si trattava di un quadro importante, aveva in mano solo i libri e la cinghia di scuola, perché stava andando a scuola. Bene, entrò dal rigattiere, offrì i libri e la cinghia, il rigattiere accettò e si prese il quadro. Pensate, era un quadro di David, un quadro di un importante pittore francese della fine del Settecento. Comperò un carrettino, divenne celebre tra gli antiquari e rigattieri, e da lì cominciò una carriera straordinaria che lo portò a diventare ricchissimo in pochi anni, a diventare addirittura l'amico del principe Umberto di Savoia, il quale capì che l'antiquario poteva essergli utile. Perché? Perché il principe aveva sempre bisogno di soldi, però aveva accesso a tutte le case importanti e poteva informare l'antiquario di quali nobili e quali aristocratici erano disposti a vendere qualcosa qua e là. Questo connubio porterà a tutte e due una grande fortuna, tant'è vero che Pietro Accorsi diventerà, appunto, negli anni, soprattutto nel dopoguerra, l'antiquario più influente e importante di tutta l'Italia.